Vi do un caro saluto, benvenuti in questa biblioteca. Siamo in questa sede provvisoria in attesa del polo bibliotecario e tutte le settimane cerchiamo di organizzare degli incontri, dei dibattiti. Ci teniamo in particolare agli incontri con l'autore o con l'autrice perché sono sempre delle occasioni interessanti, straordinarie, di conoscere qualcuno che ha lasciato scritto delle proprie emozioni, si è inventato una storia oppure ha fatto delle ricerche, in qualche maniera ci consegna una testimonianza e molto bello, molto interessante sentire poi raccontare come è nata quest'opera. E questa sera abbiamo con noi, e lo ringrazio di aver scelto la Biblioteca Provinciale Clambagio, e Maurizio Mazzotta, che già in altre occasioni ci ha accompagnato alla scoperta e alla conoscenza di autori e di autrici del territorio. Ed è a sua volta autrice di poesie, abbiamo anche in questa biblioteca alcuni suoi libri. Tutto nasce sempre dall'intenzione anche di far conoscere la biblioteca, in particolare questa che è un po' piccola e soprattutto nascosta, perché siamo convinti che la biblioteca sia un posto dove chiunque ha diritto di accedervi, di usare quello che è esposto sugli scaffali per costruirsi un percorso individuale nella massima libertà e soprattutto all'insegna della conoscenza. Mi piace sempre ricordare una collega di Pistoia che dice che la biblioteca ha successo quando chi entra esce convinto o comunque avendo una sensazione di essere in qualche modo migliorato. Si può migliorare in tante maniere, scoprendo qualcosa di nuovo, un nuovo punto di vista, avendo una nuova curiosità così da soddisfare. Mi scuso con le persone qua dietro, devo tenere questo microfono. Delle curiosità da soddisfare, un nuovo percorso da impostare, delle conoscenze, ma anche dei nuovi legami. La biblioteca può essere anche un straordinario luogo dove si possono trascorrere delle ore anche in compagnia di persone non previste, ecco, nel proprio panorama e quindi un posto che ha una funzione anche sociale, ma prima di tutto culturale, direi. Ecco, vi ringrazio ancora, cedo la parola ai nostri ospiti e tornate a trovarci, lasciamo sempre sulle sedie i prossimi appuntamenti. Lasciamo sulla sedia anche un modulo di iscrizione, tutto gratuito, ma a noi fa piacere così potervi raggiungere e tenervi sempre informati. Grazie. Allora prendo io la Sì, parola, però prendi faccio proprio. così perché sennò qua. Non so se mi sentite, è abbastanza? Perché non riesco. Ah. Allora vorrei darvi la buonasera, ringraziarvi per questa sala bella piena, mi piace molto vedere che c'è questo calore. Aggiungo una cosa, Valeria, a quello che hai detto tu, che gli incontri in biblioteca sono sempre degli incontri con delle persone che hanno degli interessi e quindi hanno uno spessore e questo è importantissimo. Questa sera sono qui per preparare a voi l'incontro con questo nostro autore che è Clambagio, che è un nome un po' strano, però è un acronimo dei suoi quattro nomi. Clambagio, per chi non lo conosce, e credo che però qui lo conosciamo già tutti, ricordo che è nato a Santa Cristina in Val Gardena, che è un imprenditore che è residente a Bolzano e operante nel Trentino. Però anche in ambito internazionale. È un appassionato di arte moderna, è un appassionato di musica, è un appassionato di scacchi e scrive di notte, scrive, scrive, scrive di notte, perché di giorno non ha un attimo di tempo. Questo è il suo secondo romanzo, il primo è uscito nel 2010, se non Sì, sbaglio, giusto, sì. che era Fior d'Italia, il destino gioca a dadi. Vorrei, se qualcuno ha qualunque intervento, qualunque domanda, vorrei che vi sentiste assolutamente liberi di dire quello che, o di chiedere qualche curiosità o Intervenire. di fare così, sì, degli interventi. Cerchiamo di fare più una chiacchierata che non una cosa troppo. Claudio, tu stai già scrivendo, cioè hai già finito, stai scrivendo anche il tuo terzo romanzo, che presenteremo chissà quando sarà pronto. Quello. Posso anticipare soltanto il titolo? Solo il titolo. Difatti mi sono messa una sciarpa con le farfalle perché si chiama Mariposita allungami la vita, cioè piccola farfalla. Ma di questo poi ne parleremo quando uscirà. Questo libro è un libro scorrevolissimo, ecco, dico così. È un libro che ti prende, che ha una prosa scorrevole, ricca, coinvolgente, ti trascina nella lettura, vuoi sempre andare avanti, però ti costringe poi a dei momenti in cui ti devi fermare perché devi riflettere. Non guardarmi in modo così fosco. Devi riflettere, non sono assolutamente fosca. È bello perché non è una lettura che si perde, è una lettura che ti prende, ti fa riflettere, ti fa ripensare. Io vorrei leggervi due pezzi, piccoli pezzi, dove vi rendete conto di che tipo di prosa usa, che bel linguaggio morbido che usa Glambagio. Il primo è sulle mani e dice: i tanti gesti, i tanti significati delle mani, alzare le mani, tendere la mano, dammi una mano, mani sporche di sangue, lavarsi le mani con il suo doppio senso, il sudore delle mani che tremano, che violentano, che feriscono, che uccidono, mani che lavorano, che giocano, pregano, aiutano, che alleviano, che elemosinano, che curano, che creano, costruiscono, modellano, plasmano, distruggono, mani che riscaldano, che proteggono. Hands have no tears to flow. Le mani non versano lacrime, scriveva Dylan Thomas. Già, ma spesso le asciugano. Anacleto le osservava assorto, in silenzio, le sue mani con le dita affusolate. Con la macchina di prima mattina si era recato a San Michele Extra, il suo borgo natio. L'aveva parcheggiata vicino all'argine dell'Adige, lì dove da bambino, con i suoi amici, aveva passato tante estati spensierate, con le mani sporche di allegria e di felicità. Ecco, questo, se tu vuoi dire qualcosa, è un pezzo in cui ognuno di noi si ritrova. Possiamo guardare le mani, le nostre mani, e pensare che abbiamo fatto tutte queste cose anche noi, che le nostre mani, esatto, sono. Ed è, secondo me, molto coinvolgente come pezzo. Il secondo, sempre sulla prosa, è alla fine del libro, nel postlogo, ed è un pezzo che riguarda l'Africa. Ed è una piccola descrizione. Intorno alla missione, la natura mostrava il suo abito sgargiante di mille colori, uno spettacolo di variazioni cromatiche, lussureggiante, che partendo dal color rame vivo della terra si estendeva alle innumerevoli nuance di verde della savana per specchiarsi nel cielo a tinta blu Klein, che poi mi spieghi che cos'è il blu Klein, che io non lo so, verso il quale, come un eroico paladino altissimo e possente, si ergeva il Kilimangiaro con la sua cima perennemente innevata. Ogni giorno Anacleto lo guardava rapito, questo gigante di cui Hemingway all'inizio del suo romanzo Le nevi del Kilimangiaro narrava che i Maasai lo chiamavano Ngaiengai, la casa di Dio. Aveva veramente qualcosa di divino quella presenza tanto ingombrante quanto maestosa che creava nello spazio un contrasto armonico di forme e colori da togliere il fiato. Ogni mattina, prima di entrare a scuola, Anacleto si guardava intorno, ammaliato da tanta bellezza. La natura sovversiva della bellezza, la bellezza sovversiva della natura, che ti seduce col suo fascino nascondendoti la cruda realtà, come l'abbandono all'avvenenza di una donna seducente cui si perdonano tutti i vizi, pensò. Ecco, io credo che questo sia già un biglietto notevole del modo in cui Glambagio scrive, il modo in cui comunica i suoi sentimenti, ma anche i suoi colori, voglio dire, i colori dell'anima, direi io. Ecco. questo libro è molto uno specchio della nostra civiltà, della nostra società, con i sentimenti, le debolezze, i ravvedimenti e le cadute, dove i personaggi maturano riflessioni diverse, ma che secondo me hanno tutte un unico scopo, che è quello del miglioramento dell'equilibrio psicofisico di ognuno. Si compie un percorso doloroso, difatti si chiama la fotosintesi del dolore, è di smarrimento di sé, di perdita un po' degli equilibri e dei punti di riferimento, di cambiamento anche dei rapporti interpersonali, di presa di coscienza delle priorità, cosa importante nella vita, di maturazione e di scelte. Bisogna sentirsi bene il più possibile, perché la vita è una sola. Questo a me sembra un po' il concetto. Facciamoci del bene, scegliamo per fare del bene a noi stessi. È assolutamente contemporaneo e Clambaggio riesce a spaziare da Seneca a Socrate, da Toro Seduto a Jimi Hendrix, da Pasolini agli Abba, da Sant'Agostino a Marsivori. Cioè, c'è dentro tutto quello che... e ce ne sono molti di più. Ci possiamo identificare in questo libro perché i personaggi sono molto reali, molto concreti. Forse ognuno di noi conosce qualcuno che gli assomiglia a uno di questi personaggi. Sono anche i luoghi, i riferimenti simili, le esperienze, le passioni simili. Tu Clambaggio l'hai dedicato agli uomini contro nella tua dedica, che aiutano aiutando a vivere, a uomini come Pier Paolo Pasolini e Giorgio Gaber. Allora vorrei chiederti prima perché hai scelto Pier Paolo Pasolini e Giorgio Gaber. Ma perché, essendo molto diversi tra loro, comunque erano degli uomini che hanno aperto la mente a tanta gente. Se noi andiamo a leggere ad esempio i testi delle canzoni di Gaber, sono meravigliosi, e di Pasolini credo che non debba dire nulla. Sono degli uomini contro perché sono degli uomini che non si sono fatti condizionare da quelle che erano, diciamo, le idee del momento. Cioè, lo stesso Pasolini aveva preannunciato con quasi 20 anni di anticipo la fine della DC all'epoca, della Balena Bianca. Mi ricordo anche certi articoli che io leggevo sul Corriere della Sera, dove lui appunto scriveva in prima pagina, nel 72 e nel 73. Di Gaber invece, Gaber era un personaggio, ahimè, coinvolgente non soltanto per come parlava, per come recitava. È stato anche diverse volte a Bolzano, chi l'ha visto se lo ricorderà probabilmente, ma a parte le canzoni bellissime, a parte il suo modo di stare sul palco, di coinvolgere la gente, aveva una profondità che era veramente pazzesca. Cioè, a rileggere attentamente i testi delle canzoni si capisce che era un uomo contro anche lui. Quindi io ho dedicato questo libro a questi due personaggi grandiosi, proprio perché io penso che un intellettuale come lo è stato anche Gaber, perché non è stato soltanto uno showman, è stato un cantante, è stato anche un intellettuale, e come Pierpaolo Pasolini, siano degli osservatori della società che poi dopo prevedono spesso l'andamento della società e gli sviluppi della società. Mi viene da pensare che purtroppo sono tutti e due morti. Certo. Allora c'è qualche uomo contro secondo te oggi? È molto più difficile, vero? È molto più difficile. Non saprei dirti quale oggi come oggi. Non saprei dirti quale. Ti capisco. Avrei anch'io il dubbio. Ma allora questo romanzo è stato definito uno psicotriller. Sì. Ma per me è un pretesto. Sì, lo è. Sì, lo è. Ecco. Allora ho indovinato. Sì, è vero. È un pretesto. A me ha fatto venire in mente questo braccialetto che ho, questo qua, che ti sembra strano? Allora, questo è un braccialettino con una catena con dei ciondoli, no? Possiamo pensare che la catena è lo svilupparsi della storia, la trama, E i ciondoli sono tutti gli argomenti veramente corposi e importanti che lui ha messo e che pongono dei dubbi e che pongono riflessioni e che incuriosiscono. C'è il dolore, la vendetta, la sete di potere, il moralismo, il perbenismo, il dualismo fede-religione, la corruzione, il sesso, l'amore non amore, l'amore tradito, i rapporti omosessuali, la vecchiaia, il successo. C'è tutto questo dentro questo libro. Hai analizzato? No, sì, perché la trama poi dopo si rinnova, diciamo, abbastanza velocemente, ma non tramite un unico soggetto. Cioè io, ad esempio, ho scritto il primo romanzo che c'era un protagonista che in pratica dopo pochi capitoli è sparito dalla scena. E nel prossimo romanzo ci sarà questa mariposita che è una protagonista, non protagonista ovviamente. Ci sono dei personaggi che in realtà affiancano sempre il protagonista, che in certi capitoli, anche in tutto il romanzo, diventano anche più importanti del protagonista stesso. E quindi questi diversi temi vengono svolti e vengono preannunciati quasi dal confronto tra diverse persone, sempre nell'ambito di una trama di cui cerco di non perdere mai il filo, ovviamente, perché fino all'inizio so come più o meno inizia e finisce, ma poi dopo il dipanarsi è molto importante, perché poi dopo ci sono delle cadute che si cerca sempre di superare, perché poi dopo nel momento in cui un lettore legge un libro e ci sono uno o due capitoli che sono un po' fiacchi, chiamiamoli così, cosa fa? Prende il libro e lo mola via. Cioè ci deve essere proprio anche questa costante, in questo costante interesse di leggere il prossimo capitolo e questa tensione anche nel romanzo stesso. Il protagonista si chiama Anacleto. Ma io urlo un po' e così non uso il microfono, tanto mi riesce benissimo. Il protagonista si chiama Anacleto, che è un nome un po' Anacleto Lucio, bisognerebbe dire, no? Però ma è perché anche Lucio, la moglie lo chiama Lucio. Ah no? sì, la moglie lo chiama Lucio. Te l'avevi dimenticato, me ne ero ricordo io, ce lo ricordo. Ma guarda te. È vero. Allora, Anacleto, che è un nome di origine. Prego? Mi viene in mente un cartone animale. Esatto. Viene scritto è un nome di origine greca, Anacletos, che significa desiderato. Però è anche il gufo di Mago Merlino, esatto, che era un grande scorbutico, esatto, bisogna dire. Allora, che cosa ti sei ispirato? Qualcuno a un personaggio? No. Perché non è scorbutico Anacleto del libro? No, ho preso Anacleto come nome perché si prestava a diverse considerazioni e a diverse interpretazioni anche da un punto di vista nei discorsi stessi. Quando ad esempio si scopre che Anacleto era anche il nome del terzo papa, che molti non sanno, e che è morto in condizioni anche molto tragiche, no? E quindi, e poi dopo Anacleto si presta a certi calembour che faccio nell'ambito del romanzo, quando il vecchiato lo prende in giro, anzi lo insulta proprio stoppiando il suo nome, no? Quindi è stata una scelta, diciamo, Anacleto. La notte proprio. I luoghi sono Verona, Mantova e Innsbruck. C'è sempre, come nel primo libro, questo collegamento un po' con le nostre terre e con l'area germanofona, anche se il collegamento con Innsbruck è molto diverso rispetto a quello del primo romanzo, però anche questo aiuta un po' a vivere dentro questo romanzo e a ritrovarsi, no? A vedere che è la nostra terra in fondo, anche se non c'è Bolzano, non c'è Sette Querce, sì, come nel primo, ma comunque è sempre un romanzo che si svolge in un ambito imprenditoriale, sì, che è quella la tua esperienza, sì, principale, esatto, ecco, cioè l'esperienza di vita del lavoro. Sì, perché come ho già avuto modo di dire, se si va in una libreria, si vanno a vedere i romanzi, sono quasi tutti o dei gialli o dei thrillers o delle storie, diciamo, autobiografiche, non parliamo ovviamente della saggistica. E però parlando del lavoro, abbiamo qui presente anche un sindacalista che magari lo può confermare. Parlando del lavoro, ci sono pochi romanzi che sono impegnati nel mondo del lavoro, e io penso che come è successo un paio di settimane fa, che qui un poliziotto ha scritto un libro, ha presentato un libro, e io gli ho anche chiesto se, ovviamente, ha scritto un thriller proprio sugli omicidi, eccetera, perché lui, essendo un poliziotto, essendo ovviamente esatto, un ispettore, anzi, chiaramente se ne intende. Beh, questo diciamo è il mio mondo, è da 30 anni che è il mio mondo, e quindi insomma penso di poterne parlare. Quindi mi muovo anche con una certa soltezza. Bisogna dire che se ne fanno di tutti i colori in questo ambito imprenditoriale. Tu l'hai visto nelle grosse aziende. Tu hai l'esperienza. Nelle grandi aziende, dove... guarda, nelle grandi aziende si vede di tutto e di più. Ecco. E di più. Cioè, un quadro abbastanza inquietante, devo dire. Ma realistico. Perché... Ma realistico. D'altronde lo sappiamo che noi il merito oggi come oggi non è che viene pagato spesso, cioè oggi come oggi servono tante altre cose per fare carriera, no? Non il merito. Il tema un po' più sostanzioso del libro è quello sul dolore. Se posso vi leggo un pezzetto, così introduciamo... Eccolo qua. Anacleto udiva... Con la sua voce distante, ovattata, come filtrata, si era improvvisamente reso conto della gravità della situazione. Altre persone innocenti rischiavano di essere lese o ferite a causa sua, a causa di quella pazza che gliel'aveva giurata. Si sentiva nudo, inerme, indifeso, senza via di scampo. Il suo viso era stravolto, si era dipinto di angoscia, come i peggiori ritratti di Francis Bacon. Una pena vederlo, un uomo alla deriva. Ecco, questo per introdurre il tema sul dolore. Attraverso cosa passa, secondo te, la fotosintesi del dolore? Scusa, solo una parentesi. Non sapevo ancora, certo, che Francis Bacon aveva venduto un quadro, un trittico da 106 milioni di euro. La domanda, scusa. Attraverso cosa passa? La fotosintesi del dolore. La fotosintesi del dolore, ho preso questo titolo un pochino fosco, ma in realtà la fotosintesi è il principio chimico che ci dà la vita. E questa trasformazione dall'energia alla vita sta a significare che il dolore deve essere capito, deve essere accettato, non si può ignorare il dolore. In virtù dei dolori, delle esperienze di dolore, che noi ci portiamo avanti. C'è un vecchio detto che dice: quello che non ti uccide ti rende forte. E d'altronde parliamo qua con una persona che ha avuto una grande e brutta esperienza per quanto concerne il dolore. Io dico che il dolore bisogna metabolizzarlo, bisogna cercare di superarlo, metabolizzarlo, non bisogna vivere in apnea pensando che questa onda possa passare. Il dolore va proprio metabolizzato, appunto come la fotosintesi, che poi dopo cambia in bene. Così spesso, non so se l'avete mai visto, sicuramente anche voi, certe situazioni di dolore poi dopo si tramutano in cose positive. La fotosintesi del dolore, in pratica, anche qua il protagonista ad un certo punto si trova spoglio e dice: ma in realtà cosa ho perso? Ho perso un matrimonio che era già fallito, ho perso in realtà le mie due figlie, ma non le ho perse perché già non le vedo, e comunque tramite Skype eccetera le posso vedere e sentire lo stesso. Ho perso il mio ruolo in politica ed è meglio che abbia lasciato questo nido dei serpenti. Ho perso il mio lavoro, ma in realtà il mio lavoro non mi gratificava più. E quindi la sua risposta, la sua rivolta al dolore, la sua fotosintesi al suo dolore è stato il bene del volontariato. Lui si è ritrovato a fare volontariato in Africa. Questo, diciamo, è il filo conduttore del romanzo. Qui c'è una citazione: il dolore non ha bisogno di lacrime per essere omologato. Certo. No? Il dolore è altro, diciamo, sì, così, no? Ma secondo te si cambia solo attraverso il dolore? No, però io penso che il dolore porti la consapevolezza che altrimenti non si ha. Cioè, è nei momenti di dolore che ci si ritrova consapevoli di essere vivi o di trovarsi in certe situazioni. Se voi pensate anche io adesso parlo per me, quando si pensa al passato, di quello che hai vissuto, eccetera, ci sono delle certe situazioni di dolore che tu ti ricordi sempre. L'importante è che non siano delle piaghe, perché le piaghe si riaprono. L'importante è che restino cicatrici. E queste cicatrici comunque restano indelebili nella tua anima. E quindi io dico che il dolore, poi chiaramente c'è dolore fisico, ma noi parliamo ovviamente del dolore dell'anima, anche in questo racconto. Il dolore sicuramente ci fortifica, anche perché non c'è alternativa. O ci si lascia andare, o ci si suicida, oppure si deve affrontare questa situazione. La migliore situazione per affrontare il dolore, o un momento di dolore, o un periodo di dolore, è quello di cercare di capirlo, di comprenderlo, di farselo proprio, di svilupparlo, di cambiarlo. Posso in questo contesto farvi, mi sono scritto fuori un paio di aforismi sul dolore. Uno della mia autrice, l'autrice che più amo, che adoro, che è Oriana Fallaci, anche lei purtroppo ci ha lasciati, quando scrive: incredibile come il dolore dell'anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia, si mettono subito a strillare: pronti, pronti, presto, barellieri, il plasma. Se ti rompi una gamba, te la ingessano. Se hai la gola infiammata, ti danno le medicine. Se hai il cuore a pezzi e sei così disperato che non riesci ad aprire bocca, invece non se ne accorgono neanche. Eppure il dolore dell'anima è una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata. Le sue ferite sono assai più profonde e pericolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono, quelle ferite che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare. Io vorrei che tu introducessi questo personaggio che sembra marginale, però invece è il personaggio più importante del libro, che è Don Vincenzo. È vero. E il suo, anche il suo ruolo, perché Don Vincenzo è un parroco che non sta mica tanto bene lì in questa chiesa di paese. Lui vuole tornare in Africa nella sua missione, dove ha un lavoro di un altro tipo, quindi è un prete che ha una concretezza diversa in quanto a questa esperienza di missione. Se vuoi parlare, sì, tu di Don Vincenzo. Don Vincenzo per me è forse il personaggio più riuscito di questo romanzo, anche lui non protagonista, cioè co-protagonista. A Don Vincenzo penso di aver dedicato 3 o 4 capitoli. Il primo, in pratica, lui nasce in questo libro al 10° capitolo. Se sui 30 capitoli, i primi 9 non si sa neanche di questo Don Vincenzo, un po' come nel primo romanzo, dove la figura predominante era questo Reinhard Werth, che era questo big boss germanico. E anche questo qua, a questo big boss germanico, erano dedicati soltanto 4-5 capitoli, ma secondo me era forse la figura predominante che aleggiava su tutti gli altri. E anche in questo caso Don Vincenzo, in realtà, anche se non se ne parla, sta sempre lì, in disparte. Cioè, tu capisci che prima o poi ritorna, che prima o poi viene preso in considerazione. E forse il capitolo che più mi è riuscito di tutto il libro è proprio il primo colloquio tra Don Vincenzo e Anacleto, il 10° capitolo, dove Anacleto appunto si rifugia, possiamo dirlo così, nella sua chiesa natale, che gli ha dato proprio Natali, e Don Vincenzo, che lo conosce da tanti anni, gli parla. E lui si confessa, ma dice: non voglio confessarmi, voglio parlare con lei, Don Vincenzo, da uomo a uomo, da amico ad amico. E allora prendono un caffè insieme e poi nasce questo dibattito sulla fede, sulla religione, sulla razionalità, sulla società e soprattutto anche sull'enciclica Fides et Ratio, che è un'enciclica bellissima che la dobbiamo a un papa polacco, a Giovanni Paolo II. E penso proprio questo capitolo mi è molto piaciuto, anche perché, come hai detto tu giustamente, Don Vincenzo è un parroco, sì, però di larghe vedute, infatti anche molto un po' scontroso, no? Quando dice certe cose. Difatti gli dice: visto che sei così colto e preparato, dice ad Anacleto, se non trovi questo tuo comportamento peccaminoso e immorale, perché allora sei venuto qui? Perché avverti il bisogno di sfogarti? Allora, questa necessità di, quando uno è un po' perso, sì, di trovare una persona, che in questo caso è Don Vincenzo, per trovare una sponda, un appoggio, però sulla difensiva, sì, perché lui va dicendo: sì, sì, parlo con te come amico, però non venirmi a fare questi discorsi, no? Non venirmi a fare la predica. È molto carino quando Anacleto esce dalla chiesa, che Don Vincenzo va e prega, dice: Signore, aiuta questo uomo, perché non possiamo abbandonare uno che ha letto le encicliche, cioè ci rendiamo conto di chi è, no? È uno che le ha lette, chi mai le legge, no? Per quanto peccatore possa essere, insomma, bisogna dargli una mano, bisogna in pratica, dargli una, no? Mano, sì, esatto. Infatti, se permetti, prego. Quando dice che parla, Anacleto parla del Padre Nostro, no? E dice: quando uno recita il Padre Nostro, dice: e non mi indurre in tentazione. Ma che ci posso fare io? Dice Anacleto a Don Vincenzo: se la carne è più forte della mia volontà. E quindi nasce un dibattito proprio su questo, no? Lui vorrebbe non cedere, ma non riesce a non cedere. E lui dice: se io sono debole, perché sono debole? È lui che mi ha reso debole. In pratica lui disconosce il libero arbitrio. E poi dopo, sulla base di questo discorso del libero arbitrio, si chiude poi dopo il romanzo, quando lui riconosce che sì, siamo tutti deboli, ma proprio sulla base del libero arbitrio dobbiamo prendere le nostre decisioni e ovviamente dobbiamo essere coscienti e responsabili di quello che facciamo. E ripeto, questo fa parte appunto del decimo capitolo, che è il primo colloquio appunto con Don Vincenzo. Qui c'è un interessante colloquio sul concetto di normalità, che secondo me è uno dei punti importanti. Sì. Cos'è la normalità? Chi decide quale sia la normalità? Che cos'è per ognuno di noi la normalità? Leggo questo piccolo pezzo che parla anche di omosessualità e di rapporti. Scusa, anche questo fa parte proprio del colloquio. Esatto, questo nel colloquio. Se una persona è omosessuale, secondo lei, da cosa devia? Dalla normalità? Certo, da cos'altro? E chi stabilisce la normalità nei rapporti sessuali, Don Vincenzo? La società. E chi nella nostra società stabilisce cosa è normale e cosa non lo è? I teologi, i filosofi, gli opinion maker, i cosiddetti maître à penser? Punti di riferimento fondamentali delle riflessioni etico-politico-sociali che spesso poi sono stati severamente ridimensionati dagli sviluppi della storia, mettendone in risalto la debolezza come pensatori, le loro illusioni, l'inadeguatezza e la mancanza di visioni. Chi al giorno d'oggi può parlare ancora di morale e di moralità? Sono termini tanto abusati quanto inconsistenti, perché dipendenti da troppi fattori. Quello che era immorale un tempo non lo è più ora. Quello che non lo è ora probabilmente non lo sarà più domani. Quello che è immorale in Italia non lo è al 60° parallelo in Svezia o al 100° meridiano in Mongolia. Di che cosa stiamo parlando, padre? E qui sì, ti passo il concetto espresso. Il concetto, no? Di normalità. Il concetto è vero. Cioè, siamo pieni di concetti, ma in realtà cosa significa normale? Ecco, cos'è la normalità per voi? Un po', è sempre, pone sempre un po', no, delle proprie scelte. C'è un Anacleto fa anche per un breve periodo il politico, e qui c'è una piccola cosa sul ruolo politico, che naturalmente è un politico corrotto. che si non lascia corrompere, cioè, solo una volta, proprio per... Una volta? Sì, sì. Ma però questa volta non la prende neppure in considerazione. Sì, sì. Cioè, non è che lui abbia dei sensi di colpa perché ha corrotto. Perché si fa? Perché lo fanno tutti, si fa, no? C'è questa cosa... Gli salta fuori il problema soltanto quando gli dicono: ehi, tu hai tirato su 100.000 euro e sei un corruttore, no? Esatto. E qui c'è un se lo trovo, un pezzettino che spiega quello che secondo me è proprio il pensiero del momento, diciamo, degli ultimi... Ne vediamo di tutti i colori ogni giorno. Circa 5 mesi fa, in primavera, è una pratica diffusa, lo sai, io mi sono sempre defilato, ma l'ultima volta non potevo sottrarmi al gioco. Non è che ne avessi bisogno, ma insomma, non fanno mai male. E poi, quasi mi hanno costretto a prenderli, un tacito accordo, una prassi talmente diffusa, quella della provvigione, che se non ti accodi e la rifiuti vieni emarginato e guardato con sospetto. Questo è proprio rigirare la frettata totalmente, no? La giustificazione. E l'amico gli dice: ma dai, Cleto, basta, se qualcuno ti dovesse denunciare o chiamare in causa, tu neghi fortissimamente, neghi sempre, neghi a oltranza, secondo l'usanza corrente. Sono gli altri che devono provare che hai pigliato delle tangenti, giusto? Ecco, questo io lo trovo di un'attualità. Sì, sì. Ho torto, Clara? No, cioè, attualissimo, ed è proprio la giustificazione del misfatto, no? Sì, sì, esatto. Ma sì, se lo fanno gli altri, perché non mi devo mettere sti soldi in tasca? Non posso sempre no? dire di no. Cioè, ma no, è perché poi vieni emarginato, esatto. Quella è la questione. Se non sei corrotto, sei un onesto, ti prendo per scemo, no? Sei un onesto. Questo anche... molto carino. Un'altra situazione della norma. Eh? È un'altra situazione della norma. Assolutamente. Non è dentro nella norma. Assolutamente. Una cosa anormale, se fosse nella norma. È lo specchio. Ma questa cosa... mai fatto il politico tu, vero? No. No, ok. No, così mi informo. No, beh, parlando di esperienze vissute, appunto. Uno si informa. Non lo farai neanche. Non penso. No. C'è una parte che riguarda il successo. Che cos'è il successo? Quanti di noi aspirano al successo? Che cosa significa avere successo? Giusto. Dobbiamo per forza avere successo per vivere bene? Secondo te? Assolutamente no. Quando si parla di successo bisognerebbe capire cosa si intende per successo. Successo nei confronti di chi? Nei confronti di cosa? Avere più soldi di qualcun altro? Avere più macchine, avere più beni? Cosa significa successo? Il potere. Potere di cosa? Lo vediamo anche, la corruzione è figlia del potere, ovviamente. E questa anomalia che riscontriamo anche da noi, cioè in continuazione questi casi di corruzione, questa ambizione sfrenata, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E poi resti nudo. Perché in realtà, come scrivo anche nel prossimo romanzo, cioè riprendo certi piccola certi anticipazione. Temi, cioè, poi dopo uno va avanti, accumula, e poi dopo schiatta. E prendono i figli, no? Eh sì. Cioè, ti ritrovi proprio senza, cioè, trovarsi senza valori, senza, cioè, il denaro, sappiamo tutti, aiuta, come no? Come diceva Gaba, il denaro è importante, aiuta, ma il denaro non fa la felicità, non ti fa gli amici, non ti dà neanche la riconoscenza, anzi guai a chiedere riconoscenza quando l'hai il denaro. Però posso aggiungere che la Littizzeto diceva: il denaro non fa la fortuna, però figurati la miseria come fa la fortuna. E lo dice la Littizzeto, che prende 20.000 euro a puntata. Piglia 20.000 euro a puntata, cioè, quindi è già meno simpatico. Però almeno ti fa ridere, c'è gente che non ti fa ridere, che prende di anche più. Sì, sì. È vero. E li prende ufficialmente. Leggo questo pezzettino sul successo? Sì, quel che. Allora, ma sì, Cinzia, cosa significa avere successo? Avere soldi? Più soldi? Più soldi di chi? C'è sempre qualcuno che ne ha più di te, e allora avere più case, più macchine, più donne? Come se si potesse amare più donne, viaggiare in più macchine, vivere in più case contemporaneamente. Avere notorietà? Per chi? Nei confronti di chi? Il successo di una vita non si può determinare come un'azione in borsa, non può essere misurato con l'applausometro o con l'indice di gradimento della folla. No, credimi, la fame di successo è una fame effimera, è l'ingordigia che cerca di coprire le sue miserie. Forse che con il successo o con i soldi che solitamente lo misurano compri l'amore, l'affetto, l'amicizia, la stima, la salute, la dignità, la fede, la riconoscenza. Ma nemmeno quest'ultima ti compri, anzi, proprio quella non devi cercare. Lo sai, perché siamo tutti schizzati, nervosi, intrattabili, perché la nostra vita non è altro che un'inutile, continua rincorsa alle illusioni dei nostri sogni, che poi si infrangono. E questo riflette quello che avevi appena detto tu, corriamo, siamo stressati e poi improvvisamente ci fermiamo. E poi diciamo, ma perché diavolo sto correndo? Ma mi fermo e faccio qualcosa che fa bene a me, esatto. Come dicevo all'inizio. Qui faccio il solito appunto che tu conosci sulle figure femminili. Perché lui è un po' maschilista, un pochino sì. Allora gliel'avevo fatto anche presentando l'altro libro. Allora ci sono tre figure femminili, sì è inutile. Tre figure femminili, c'è Elfi, che è sempre la segretaria. Io riconosco la superiorità delle donne purché la smettano di parlare di parità, va bene? Quando voi ce la date pienamente senza fare tante storie smetteremo. Brava. Ah? Che ce l'abbiamo di strada da fare ancora. Grazie. Elfi è la segretaria, che è sempre, come un po' nell'altro libro, c'era la segretaria, è sempre quella che sa un po' tutto, tiene le fila, insomma. Poi c'è Vanessa, che è la vendicatrice, che vive in questa ansia di vendetta, che poi però si pente, insomma, perché in fondo stai lì, crei un castello per vendicarti, e quando ti sei vendicata che cos'hai? Niente, assolutamente niente. E poi c'è Eleonora, che è la moglie, che è un personaggio tristissimo. Povera. Sì, no, povera no. No, la moglie è una che vive questa finta vita, che soffre terribilmente di questo tradimento del marito, che però lei tradiva già prima. Cioè, lei ha questo ruolo così di donna triste, che vive nell'ipocrisia. Ambigua. L'ipocrisia di questa coppia, che non funziona, ma che all'esterno bisogna far finta che funzioni. Giusto. Ecco. Hai detto tu. E allora, quando è che scrivi un romanzo con una donna bella, forte? No. Scrivilo tu. Abbandoniamo. Sei così agguerrita. E ce ne avrei da scrivere. Immagino. Ce ne avrei da scrivere. E qui c'è il tema della vendetta, che è proprio questa cosa. Sì, che è il tema principale. Che è il tema principale. Una piccola lettura. Il padre la guardò intensamente. Questa è Vanessa che parla, la vendicatrice, che parla con suo padre. Forse tutta questa tua sete di vendetta, che ha contagiato anche me, era dovuta al fatto che provavi dolore per non aver potuto evitare quel che è stato. Né prima né dopo hai riversato questo dolore su San Tommaso, che è Anacleto. Ma ora che lo hai distrutto, il dolore sta riaffiorando, come prima, forse più di prima. La vendetta è un sentimento orrendo, distrugge chi la fa e chi la subisce. Non sana nessuna piaga, ma si muove su un territorio infido, sconosciuto, che può portare a conseguenze sconvolgenti. La vendetta è una nuova ingiustizia. Sì. Questa frase dice tutto, secondo me. La vendetta è una nuova ingiustizia. La vendetta è l'espressione più acuta delle vanità di chi crede di potersi fare giustizia e quindi non può essere che sinonimo di sconfitta. Non andrebbe mai messa in atto, ma a volte per molti rappresenta, sbagliando, l'unica via d'uscita al dolore. Nell'ardore della vendetta spesso la mente umana oltrepassa ogni limite senza rendersi conto, per poi trovarsi più devastata di prima. Sì. Questo concetto della vendetta è importante. Io ne ho una esperienza diretta e sono perfettamente d'accordo con quello che tu hai scritto qua, che non porta assolutamente a nulla. Una volta in un'intervista dissi a un giornalista che aspettavo sulla riva del fiume. Come cinese. Sì, anche perché io sono troppo pigra per essere vendicativa, perché portare avanti una vendetta costa un sacco di fatica, non proprio la mia pigrizia me lo impedisce. Per questa frase che io ho detto, aspetto sulla riva del fiume, sono stata criticata da un sacerdote in maniera veramente tremenda. Devo dire che la ruota della vita ha fatto in modo che io avessi in fondo una vendetta senza avere mosso un dito. Allora, la vita è questo continuo passaggio da alti e bassi, da gioia a dolori, e quindi forse non c'è bisogno di cercare. La nemesi può essere anche divina, lo sappiamo. Questo io non lo dico. Questo io non lo dico, però dico che è un sentimento che distrugge più di quello che può essere una soddisfazione tra virgolette che può arrivare, no? Però su questo, in questo libro si parla molto di vendetta. Sì, beh, cioè è il filo principale. È il filo, è la catenella in pratica. Sì, esatto. Ecco, è il filo principale. Vorrei capire da te se questa trasformazione dal dolore in un atto o in una vita migliore passa soltanto compiendo buone azioni o come può essere il volontariato e la missione, eccetera, se è un percorso obbligato, dici? Sì, non necessariamente, poi dopo ognuno appunto il dolore lo vede in un modo diverso, lo soffre in un modo diverso, lo vive in un modo diverso. In questo contesto, anzi, qualcuno mi ha scritto, mi ha dato del buonista, perché ha detto che il finale è un po' da happy end, e quindi io non credo di essere stato buonista in questo romanzo, però lui in pratica, il protagonista, si è trovato spoglio, si è trovato, come ho detto prima, spoglio di tutto, e ha detto, cambio tutto, cambio vita, cambio registro. Ed è quello che, non so se a voi mi è successo, ad una certa età succede, uno dice stop, basta, voglio cambiare tutto, no? E lui dice cambio tutto e me ne vado e faccio il volontariato. Una forma di rivolta a questo dolore, che poi dopo lui ha metabolizzato e che ha cambiato, in un'opera di bene in questo caso. Poi ci sono sicuramente altre forme. Non puoi forse pensare che sia una via di fuga? Perché? No, in questo caso assolutamente no. Perché lui ne era ben consapevole, lui ha detto, lui ha fatto le sue riflessioni, infatti anche nei penultimi capitoli ne ha parlato anche con la stessa persona che l'aveva in pratica, che si era vendicata di lui, che l'aveva in pratica rovinato, e lui la prende molto alla leggera, cioè lui proprio fa una disamina proprio di tutta la situazione, senza astio, senza rancori, senza riflessioni negative, e dice no, va bene così, io faccio questa vita, la scelta deliberatamente, coscientemente, e quindi no, non è una fuga, assolutamente non è una fuga. Il libro inizia con un epitafio di un personaggio che rimane morto dall'inizio alla fine, cioè è proprio solo una persona che poi scatena però tutta una serie di eventi. Sull'epitafio c'è scritto: il futuro è passato. Sì. Alla fine del libro tu riprendi due tipi di interpretazioni: il futuro è passato, cosa significa? Cosa hai pensato tu? Che cosa è per te, quale delle due interpretazioni il futuro è passato? Passato come verbo? Sì, no, non è o passato come sostantivo? Come sostantivo. Infatti è quello che poi dopo chiede anche l'interlocutore di turno, cioè Anacleto. Esatto. Qui ci sarebbe da fare una lunga discussione su quello che è il tempo, futuro, passato, eccetera. Io sto leggendo ad esempio un trattato neurologico sul tempo, che è molto interessante. Comunque sarebbe un dibattito un pochino lungo. A me piace molto dire che il futuro non è più quello di una volta. No, sai cosa? È una cosa che mi piace molto. Non è questo. Io penso che, se pensiamo ai nostri tempi, a quello che viviamo oggi, io credo che 40 anni fa eravamo tutti più poveri, indistintamente, io penso, più o meno. Parliamo degli anni 60, degli anni 70. Ma avevamo qualcosa, un futuro, la speranza è il futuro, si parlava di futuro. Adesso francamente il futuro fa paura, questo è vero. Io penso soprattutto alle giovani generazioni, ai nostri figli, ai nipoti, che futuro avranno. Non la vedo molto bene, però... Devo dire che siamo noi responsabili di avergli lasciato un mondo mica tanto vivibile, no? Sì, in un certo senso, sì. Cioè... Non è vero. Un paio di annotazioni, perché penso che siamo pian piano... Hai scritto un pezzetto sul Po e l'Adige che mi ha colpito molto. Tu hai scritto: l'Adige e il Po nel loro ultimo percorso scorrono paralleli a una trentina di chilometri di distanza, nel Veneto, quasi a braccetto, come se volessero salutarsi prima di andare a morire. Ecco, questa cosa mi ha colpito molto, perché secondo me non vanno a morire affatto, ma vanno nel mare e quindi si liberano, quindi è una cosa di liberazione. Come fai a pensare che muoiono? È il fiume come è un tale. Uomo, è un uomo. Un razionale. No, mi piace questa cosa che invece i fiumi nel mare, ah bello, mescolano le loro acque e vedono altri pesci. È un'immagine molto bella, secondo me. Altra piccola annotazione: nel Veneto non si beve il veneziano, si beve solo lo spritz. Ecco, il veneziano lo bevi a Bolzano e basta, perché noi siamo diversi dagli altri. Ecco. Meno male che si chiama veneziano. Ecco, si chiama veneziano perché a Venezia lo chiamano spritz. Ecco. Sei sempre juventino? Come no? Sì, perché il personaggio è juventino, ecco. Ma mi spieghi come fai a sapere quali sono i calciatori elencati, tutti più alti di 1,80 m? Beh, li conosco. Ma li hai misurati? Ma come no, fai a sapere che sono alti di un metro? Ha una fila di calciatori che sa esattamente che sono tutti più alti di 1,80 m. No. Ti dirò, non ero sicuro su Günther Netzer. Ah! Infatti è un po' meno alto di 1,80 m. Sono andato a controllare. E anche qui è un uomo. Una parte anche molto importante, ed è l'ultima, riguarda la musica. Sì. È un esperto incredibile di musica, conosce tutti. Volevo sapere se c'eri davvero al concerto di Modena Pink Floyd, sì, 17 settembre 1994, ore 21, perché l'ha specificato. Sì. C'eri davvero? Sì, meraviglioso. penso che sia stato un'invidia fantasmagorico. Sì, sì, guarda, puoi invidiarmi veramente. Un'invidia. Perché, sì, sì, sì, è stato meraviglioso. Ecco, anche questa parte della musica è una parte che unisce dei personaggi, mm-hmm. ed è molto... Ma la musica, come lo sport, è universale. Sì. Unisce tutti. Beh, sono linguaggi universali. Sì. Ecco, io credo che, non so se tu vuoi dire qualcosa, se qualcuno vuole... Sì. Eccolo, prego. Una domanda. Io non ho letto completamente il romanzo, purtroppo, anche se mi era stato dato del tempo utile, però gli impegni della vita quotidiana. Allora, rispetto a questo romanzo, l'ho trovato nella prima parte un romanzo abbastanza lunare, nel senso non vive di una luce... solare, ma questo per volontà dell'autore stesso, immagino, nel senso che il protagonista sta trascinando la propria esistenza in condizioni nelle quali sembra quasi essere più vittima che non autore della propria esistenza. E inoltre è vero, come diceva la relatrice, che c'è un attacco diretto anche a un concetto di morale che sembra non più salvaguardare quelle che erano figure tipiche come il politico, oppure anche l'impegno di un imprenditore, oppure la vita familiare. Quindi da questo punto di vista è un romanzo freddo, vive di luce lunare, fino al punto in cui io dico, ma chi l'ha scritto? Mi sembrava appunto di ricordare che ci fosse una forza imprenditoriale anche dietro, ma per una confidenza a una persona che lo scrive nelle ore notturne, non solo quindi lunare, ma dall'altro punto di vista anche un romanzo che riporta una forza di volontà e di impegno consistente. Lì dove c'è stato il mutamento del protagonista, torniamo a un grado zero dell'uomo, torniamo all'impegno che ognuno di noi mette nella propria esistenza affinché assuma un senso al di là di quello che può essere appunto anche un'indicazione morale di un... Ecco, e questo insomma rende la completezza un po' del testo, e questo insomma mi è piaciuto, non l'ho completato, per cui magari qualche nota... Bisogna riservarsi appunto. Ce l'avrei, però l'impegno che... cioè il senso che viene espresso al di là della morale mi sembra che sia un taglio notevole per questo testo. Posso dirgli che l'assassino è il maggiordomo? No. No. No, effettivamente per certi versi è dissacrante, no? Sì. Perché, ma d'altronde basta che ci guardiamo in giro, insomma, quello che assistiamo è pazzesco. Esatto, però c'è questa spinta che non è solo chimica, cioè non è solo una fotosintesi di quello che stiamo vivendo. C'è anche una volontà umana, perché insomma io credo di aver letto in questo romanzo, che riporti all'uomo la sua necessità insomma di impegnarsi affinché anche la propria esistenza acquisti un dolore non solo di riflesso a una luce ma quindi a una risultanza chimica, ma anche proprio per una necessità propria, ormai non più morale, perché l'abbiamo squalificata in ogni modo. Sì, sì, certo, ma è stata cagionata da questo dolore sostanzialmente, no? Cioè, sì, esatto, questa riflessione. Quello è stato il motore, quella è stata la cagione proprio della sua riflessione e quindi anche del suo cambiamento, del suo mutamento. Sì, Sartre lo chiamava l'angoscia, dice ogni momento siamo chiamati a ricostruirci da capo, perché non abbiamo un fine identificato, ci vuole l'impegno. E leggendo io le pagine, sentendo la relazione, insomma, mi è venuto in mente anche Camus, un grande antagonista di Sartre, che diceva non c'è amore di vivere senza la disperazione di vivere. Insomma, che tutti questi siano motori di propulsione, fanno da perno in questo romanzo, insomma, mi è piaciuto il fatto che poi venisse abbandonato tutte le questioni morali e ci fosse poi un impegno concreto da parte del protagonista in una direzione che gli sta restituendo. Lei c'ha ragione, anche perché poi dopo io adoro Camus, ho letto tutto quello che ha scritto più o meno e l'ho citato anche nel primo romanzo, tra le altre cose. Mm-hmm. E come lei sa, sicuramente Camus e Sartre sono andati a braccetto per tanto tempo e poi dopo si sono divisi e sono diventati, non dico nemici, ma insomma antagonisti, insomma. Perché lui aveva proprio un'altra visione, poi dopo una visione più umana forse delle cose, a differenza di Sartre che era molto più duro, ecco. Comunque sì, ripeto, è stato proprio determinato da questo dolore, questo cambiamento, questo mutamento della persona, del protagonista, cioè di questo Anacleto, che prima viveva come vivono tanti e poi dopo, come ho detto prima, innanzi, cioè il dolore ti crea questa consapevolezza. Lo diceva anche Dostoevsky, è il dolore che ti crea la consapevolezza della tua vita. Molto interessante, direi che lo sento molto fluido il romanzo, motivi di riflessione a non finire, a cominciare così dalla normalità, è un grosso punto di domanda e chissà quante cose se ne possono dire, il successo, il dolore, metabolizzare il dolore, queste sono veramente riflessioni molto profonde, penso che lo leggerò con molta soddisfazione, curiosità, grazie. Interiorità, complimenti, penso che insomma abbia fatto un buon lavoro. Grazie. E complimenti alla relatrice. Sì. Grazie. Veramente. Grazie. Non so se c'è qualcuno ancora che vorrebbe. No. Niente. Allora possiamo. Sì, io prima di chiudere vorrei ringraziare ovviamente la prima, la dottoressa Trevisan, che mi ha dato l'opportunità di poter presentare questo romanzo. Ovviamente ringrazio te, Maurizia, che sei sempre una preziosa collaboratrice. È un onore. E ringrazio ovviamente tutti voi presenti che siete intervenuti a questa presentazione. Grazie. Grazie.